Bene, sulle note dei Deus di Worst Case Scenario abbiamo in linea Mauro. No, in realtà abbiamo in linea Andrea. Ah, io casco davvero. Eleuter Andrea. Sì, sono due redattori. E prima parleremo con Andrea e dopo parleremo con Marco. Perfetto, per me va benissimo. Buongiorno Andrea, ci buongiorno, ascolti? Buongiorno. Ci senti buongiorno, bene? Buongiorno a tutti. Pronto, mi senti? Sì, ti sentiamo forte e chiaro. Buongiorno, io vi sento benissimo. Ottimo, allora possiamo cominciare. Allora possiamo cominciare, esatto. La prima domanda era sulla vostra casa editrice. Dicevamo appunto nell'introduzione del programma che già dal nome ci dice molto, però volevamo farcelo raccontare da voi. Perché questo nome, come è organizzata? So che più che un catalogo diviso in collane avete percorsi di lettura. Raccontaci un po', insomma, di Eleutera. Sì, esatto. Allora, Eleutera è una casa editrice particolare, abbiamo una redazione qui a Milano, oltretutto dove vi stiamo parlando, e è una casa editrice, appunto il nome lo dice chiaro e forte, che vuole distribuire nelle librerie italiane un filone di cultura libertaria. Non siamo divisi tanto a collane quanto, come dicevi tu, ti do del tuo ovviamente. Certo, assolutamente. Per percorsi di lettura, e i percorsi di lettura sono tanti, più svariati, sono da quello appunto che caratterizza poi la casa editrice, che è quello politico libertario, quindi che vanno dai classici del pensiero come possono essere Enrico Malatesta o Bakunin, Reclus o Kropotkin, fino ad arrivare invece, non so, sempre nella stessa, diciamo, percorso di lettura, a quello che è magari Todd May, che parla di poststrutturalismo incrociato alla teoria anarchica, o Colin Ward o Francesco Codello, che parla di educazione libertaria, o Filippo Trasatti. Quindi diciamo questo è il filone del percorso di lettura sul pensiero libertario, ma poi abbiamo tantissimi percorsi di lettura che vanno, per esempio, l'architettura, e soprattutto l'architettura ecocompatibile, oppure ancora meglio un'architettura progettata dal basso, e quindi abbiamo libri sulla città sostenibile, abbiamo libri sulla città imprevista, abbiamo libri sul progettare appunto secondo natura, oppure abbiamo un libro che si intitola Avventure Urbane, cioè insomma abbiamo svariati percorsi di lettura anche all'interno dello stesso ambito, quindi se l'ambito è quello dell'architettura non c'è soltanto un filone di lettura, ma ce ne sono svariati, che è quello più magari progettuale o quello più teorico di produzione appunto di pensiero e critica sulla città, come può essere, giusto per citare qualche libro, Il viaggio al termine della città di Leonardo Lippiolis, che è un libro di architettura ma in realtà è un saggio critico sulla società postmoderna, sulla città postmoderna, scusatemi. Andrea, sì, scusami, no, io volevo chiederti anche su Cayenna, che invece è proprio una vera collana, sì, che ha delle caratteristiche a sé. Sì, esatto, e Cayenna sono un'altra collana, appunto, che sono, diciamo, quelli che noi all'interno nostro chiamiamo i piccolini, perché rispetto agli altri testi che produciamo sono di, non so, per i nostri lettori, sono conosciuti ma non per tutti, sono di dimensione ridotta sia come pagina che come formato, e soprattutto sono piccoli saggi, secondo noi di divulgazione, appunto, che si occupano di svariate tematiche. Per esempio, appunto di questa collana, se non sbaglio, voi, non ne ho parlato prima, avete pubblicato l'ultimo saggio del Critical Art Ensemble, no? Esatto, è uscito proprio in questi giorni, che è Lo spettro della peste, praticamente è un libro che parla di armi batteriologiche e quella che viene chiamata appunto la politica della paura. Sempre per il Critical Art Ensemble avevamo fatto L'invasione molecolare, che era un'altra guida pratica quasi di resistenza al biotech, però sulla stessa collana, per capirci quanto è varia poi la collana Cayenne, abbiamo pubblicato un libro dal mio punto di vista, anche per formazione, insomma, molto importante, che è Marshall Salins, un grosso sbaglio, cioè nel senso è quello, un saggio sulla natura umana, che diciamo può rientrare in quel filone Chomsky-Foucault iniziato di discussione sulla natura umana e le varie posizioni. Lui è un antropologo molto importante. Un antropologo americano, lo ricordiamo. Esatto, americano. E sempre nella stessa collana, però ci sono libri anche di antropologi nostrani, diciamo italiani, tipo Stefano Boni, Vivere senza padroni. Oppure un altro titolo molto importante dal mio punto di vista, sempre di quest'anno, è di Van Eygem, Né vendetta né perdono, che è un saggio sulla giustizia moderna e i crimini contro l'umanità. Quindi, nella stessa collana, in Cayenne, lo ricordiamo, voi avete pubblicato anche Albert Camus. Abbiamo pubblicato Albert Camus. Mi rivolto dunque siamo. Questa sono degli scritti politici. Molto molto interessanti, esatto. Nel senso, comunque avete dei nomi veramente, veramente enormi. La collana Cayenna ha anche un altro aspetto molto interessante, oltre al fatto di essere saggi, molto agili nella loro dimensione, ma anche nella lettura, se vogliamo, ha anche un aspetto grafico molto interessante. Diciamo che, come dire, la copertina è divisa in quattro, abbastanza Bauhaus come concetto, e la cosa interessante è che la grafica, è un aspetto che noi comunque trattiamo, è, se non sbaglio, a cura di Falcinelli, di Riccardo Falcinelli, che, lo ricordiamo, è uno dei fautori, come dire, è l'eminenza grigia dietro la grafica editoriale italiana, perché lui si occupa di Minimum Fax, di Einaudi e così via. Esatto, non solo, si occupa anche, per citare degli amici, di Spartaco, per certo, esempio, certo, la editrice, certo. Spartaco, che ha rivoluzionato la grafica ultimamente, secondo me è stato molto interessante il loro progetto grafico. E oltre Cayenne, noi adesso abbiamo da più di un anno ormai, anche il tempo vola, stavo per dire da qualche mese, cambiato anche la grafica in realtà della collana classica, sempre con Falcinelli, che sì, non è divisa in quattro come il Cayenne, è divisa in due, però è particolare, per esempio sia il nome che il cognome non ci sono maiuscole, neanche nel titolo, o comunque è cambiata molto la copertina rispetto alla storica di Eleutra, che ci è anche un po' dispiaciuto, però insomma erano tempi di svecchiamento e di rinnovo, esatto. Sempre per rimanere. Scusa, sempre per rimanere, diciamo, visto che stiamo un po' parlando del vostro catalogo, delle collane, avete anche un'altra collana che è di Didascabili, non è vero? Sì, ci vuoi dare due cenni anche su come sì, si certo. Allora, i Didascabili, diciamo che hanno il formato e la grafica uguale a quella dei Cayenne, però hanno dei titoli leggermente diversi, nel senso che si occupano più di saggi di approfondimento specifico, per esempio mi viene in mente Paolo Perticari sull'educazione impensabile, un professore di Bergamo che si è occupato di appunto approfondire questa tematica dell'educazione, oppure sempre per i Didascabili ci sono saggi come Addio alle masse di Lebrà, che è sempre, rimane sempre il discorso del divulgativo, però un pochino più, come dire, accademico, perché sono tutte tematiche più, per esempio Addio alle masse è una critica della demografia classica, oppure un altro libro sempre fatto da professori universitari di Torino, Bazzini e Futtilli, Il senso delle periferie, è sempre uscito per Didascabili, e quindi diciamo stessa grafica di Cayenne, ma un pochino più saggio, fra virgolette, accademico, perché Eleutera è sempre fra virgolette. No, certo, guarda, io volevo chiederti una cosa, sì. Ricordo una volta Eleutera aveva anche una grafica particolare in verticale, e mi viene in mente perché volevo chiederti questo. In passato la casa editrice ha pubblicato anche della narrativa, poca, Vonnegut, Ursula Le Guin e via dicendo. Io volevo sapere se il progetto narrativa è stato definitivamente accantonato o se insomma la cosa verrà riproposta, se ci avete pensato oppure proprio. Allora, purtroppo sì, ne abbiamo fatti pochi, dico purtroppo perché mi dispiace, però perché si vendono più difficilmente, al nostro pubblico interessano meno forse, no, certo. Però detto questo, in anteprima vi dico che invece sta partendo una nuova collana, che però ancora il nome non è ben deciso, ma fra pochi mesi sforneremo i primi titoli, di docu-fiction più o meno, nel senso romanzi. Bellissimo. Ma storici. Ottimo. Quindi ci saranno nuovi titoli, uno di questi che vi posso dire sicuramente, sì, è quello di Nicoletta Vallorani su Jacob, diciamo il vero Lupin, no? Ah. E quindi la storia di Alexandre Mario Jacob, espropriatore non violento, appunto francese, che ha messo in scacco varie banche e chiese e quant'altro, e sarà romanzato, però sempre con uno scheletro di verità storica. Ah, Nicoletta Vallorani, che lo ricordiamo è uscita anche da poco per un'altra casa editrice che si occupa di tematiche, diciamo simili, insomma, di docufiction, che è Verde Nero. Verde Nero, esatto. Esattamente. Sull'Expo, se non sbaglio, ha fatto qualcosa. Sì, sì, sì, sull'Expo di Milano. Andrea, io volevo chiederti invece sulla Patagonia Rebelde. È un libro che... te lo chiede perché lei è argentina, quindi sono di parte. È un libro che ha una storia molto, molto particolare. Io non potevo pensare che venisse pubblicato in Italia per un'altra casa editrice che non fosse la vostra, quindi mi sembra il suo luogo naturale. Però, insomma, prendere una decisione, prendere la decisione, come è nato all'interno di Eleutera la decisione di pubblicare questo romanzo, che è un romanzo ormai bello datato, diciamo, insomma, non proprio un romanzo, insomma. Anche quello rientra in quello che dicevo adesso, no? Esatto. Senso, un pochino romanzata, ma con uno scheletro di storia. Ricordiamo La Patagonia Rebelde di Osvaldo Bayer, giusto? Esatto, esatto. Il traduttore è stato Alberto Prunetti. Alberto. E niente, volevamo sapere come eravate arrivati, insomma, a decidere... Prima di tutto, Osvaldo è una persona meravigliosa, io ho avuto la fortuna di conoscerlo personalmente appunto grazie a questa nostra pubblicazione e quindi diciamo che ci troviamo molto bene con l'autore, con Osvaldo Bayer. In più il film che non so, in molti abbiamo visto, che ha vinto svariati premi, appunto La Patagonia Rebelde, ci è sempre piaciuto in redazione e ci sembrava un libro importante. È molto importante da avere nel catalogo. Chiaramente, come tu ben sai, non è completo, nel senso noi abbiamo fatto, grazie ad Alberto, che oltre a tradurlo, autorizzato diciamo da Osvaldo Bayer, che ha accettato questa cosa, una riduzione drastica, perché è drastica, perché l'edizione argentina sono 4 volumi se non sbaglio, e la nostra sono 200 pagine delle nostre edizioni classiche, insomma. E quindi è ridotto, però secondo me Alberto ha fatto un ottimo lavoro e per il pubblico italiano va bene almeno avere questo, perché fino ad oggi non era mai stato tradotto questo. Vuoi raccontare un po' ai nostri ascoltatori di cosa tratta? Perché siamo partiti raccontando subito, insomma, magari dovevamo introdurlo un pochino. Prego, sì, prego. Certo. Allora, la storia è successa veramente, è storia vera, chiaramente è parte della storia contemporanea dell'Argentina ed è una storia appunto di anarchici, ma non solo, di bandoleros, latifondisti e militari. Tutto questo è inquadrato in un periodo che quello degli anni 20, un periodo difficilissimo per l'Argentina e non solo per l'Argentina, perché anche in Italia non erano anni facili dopo la prima guerra mondiale. Ed è un libro comunque con una storia particolarissima, perché è stato perseguitato, nel senso che negli anni 70, appunto, durante l'ultima dittatura militare è stato messo all'indice, sì, è stato proprio, se non sbaglio, poi tu puoi darmi confermo pure no, è stato censurato, le copie sono state addirittura, si narra, bruciate, tolte dalle librerie. In quegli anni la dittatura argentina ha dato veramente il suo meglio a livello repressivo, perché non solo il libro di Bayer era stato appunto tolto dalle librerie, ma persino un libro che si chiamava Cuba Elettrolitica. Sì, che era un libro di fisica. Era la un Cuba libro elettrolitica di fisica, ma aveva Cuba nel titolo. E quindi via. Via anche quello. Così come Il Piccolo Principe di Saint-Exupéry. Sì, e la teoria degli insiemi in matematica. E questo è davvero il top. E quindi figuriamoci se lasciavano Patagonia Rebelde. Esatto, alle letture, insomma, degli agenti. Negli stessi anni, ricordo, come ho detto prima, che esce questo film di Hector Olivera che vince l'Orso d'Argento a Berlino invece nel 74, quindi era perseguitato, censurato in casa, diciamo, in Argentina, mentre riusciva ad avere un discreto successo all'estero. E questa è stata proprio una storia molto, molto particolare, anche perché lui parla di ribelli che sono stati proprio totalmente dimenticati e invece hanno preso parte a uno sciopero nel 1921 insurrezionale e diffuso. Erano riusciti a occupare, appunto, giusto per fare una minima di storia di questo libro, le fattorie dei latifondi della Patagonia, ma erano appunto contadini, non era un esercito comunque delle milizie, erano dei contadini esasperati che si sono rivoltati contro i loro padroni e per mesi sono riusciti a tenere è lontano la polizia, poi come sappiamo, o comunque come narra anche il libro, è finita male la storia drammatica, nel senso che poi l'ordine torna. Certo. E Bayer ce lo racconta molto bene, secondo me, proprio in presa diretta, quasi giornalistica. E voi siete stati bravissimi a recuperarlo. Davvero. E vorremmo parlare anche un po' con Mauro, perché sì, mi ha detto che quello che invece è più, diciamo, propenso a parlare dei nuovi progetti, sì, in cantiere, sì, anche perché abbiamo pochissimo tempo, per vogliamo sentire anche la sua voce. Io ti saluto, Andrea, ti ringrazio tantissimo per essere stato con noi e niente, adesso parliamo con Mauro appunto delle novità e dei progetti in cantiere per Eleutera. Perfetto, un grazie a voi, grazie, buona giornata. Grazie Andrea. Ciao. Mauro, ci sei? No, pronto. Eccoci pronto. Qua, ciao Mauro. Ciao, buongiorno. Ciao. Abbiamo buongiorno. Pochissimo tempo e quindi saremo veloci. Con Andrea ci siamo dilungati, sai, Mariana Argentina, la Patagonia Ribelle, così. Beh, per me è stato bellissimo ritrovare nel vostro catalogo. Allora, Mauro, raccontaci qualcosa dei progetti editoriali in cantiere di Eleutera. Beh, io andrei velocissimamente sulla linea aperta già da Andrea, che è quella, sì, della docufiction, che, sì, sono quindi i prossimi due titoli. Ottimo. Diciamo che subito dopo l'estate andremo a pubblicare la storia di Marius Jacob, uh-huh, il personaggio sul quale poi venne tarato l'Arsenio Lupin da parte di LeBlanc, sì, e a scriverlo è Nicoletta Vallorani, scrittrice conosciuta, che ha vinto, certo, insomma, vari premi e che insomma per noi sta dipingendo questa Parigi e questa Marsiglia della Belle Époque con questo personaggio molto, molto veloce, alle prese con dei colpi, con dei furti ai limiti del genio, insomma. Certo. E ci è molto piaciuta la possibilità di rivedere in chiave nostra, quindi in chiave libertaria anarchica, il personaggio che invece fu reso, se vuoi, anche un po' bobo da LeBlanc, no? Quindi un po' falsata, no? Certo. Col cappello, il cilindro, questo inutile fiore all'occhiello bianco, insomma, come se avesse del bon ton dalla sua, mentre invece poi Jacob era uno spesso che usava anche maniere abbastanza un po' rozza, con una vita dietro le spalle di un certo rilievo. E poi altra uscita sempre di docufiction, non ho sentito quello che vi ha detto Andrea, ma l'idea, che quindi sicuramente ha detto le cose intelligentissime, l'idea è quella di legare un po' la storia di anarchici o la storia, storie anarchiche ad una narrazione abbastanza fluida, insomma, quindi il mix perfetto tra storiografia, non ti dico tassonomica, ma comunque piuttosto precisa, e però anche una fruibilità di lettura buona. E quindi abbiamo scelto Pino Cacucci, che ci racconta Clément Duval, che è questo anarchico rivoluzionario francese che ha vissuto a cavallo tra la metà dell'Ottocento e gli inizi, diciamo, mi sembra muore intorno al 30, al 35, 1900, sto intendendo, ed è il personaggio su cui poi per certi versi viene tratteggiato il Papillon, quello che poi insomma diventerà sia libro che film con Dustin Hoffman. E quindi queste due sono le cose che ci stanno prendendo molto, molto tempo, insomma, anche quella di Duval, insomma, per vita e personaggio piuttosto complesso, lui va a finire per un sacco di anni, insomma, in carcere, quindi insomma, una vita spesa bene. Ma io direi che a questo punto ci sentiamo poi qua all'uscita di questo libro, anche perché Pino Cacucci, come forse tu sai, è ben noto agli ascoltatori, sì, di queste frequenze, sì, perché sì, la sua voce si sente spesso da queste parti. Ascolta, guarda, un'ultima cosa velocemente, perché abbiamo il GR che ci vuole cacciare. Allora io vorrei che tu dicessi quali sono i modi per contattare la vostra casa editrice, e cioè qual è il sito sostanzialmente. www.eleutero.it, scritto con il TH e senza E accentata. Esatto, e poi velocemente, io ho visto che il 2011 per voi è totalmente blindato, ma se qualcuno avesse qualche proposta, cosa fa? Deve aspettare il 2012 o può già sottoporvela? No, diciamo che la mail della redazione del collettivo è sempre aperta, mm-hmm. ed è eleutera@eleutera.it. Leggiamo volentieri tutto, siamo veramente una microbo realtà editoriale, quindi i tempi sono assolutamente biblici e anche la blindatura deriva un po' da questo, perché non ce la facciamo poi stare appresso a tutte le idee che comunque per fortuna ci sono. E basta, quindi cari scrittori, armatevi di pazienza, sappiate che si legge tutto e che niente viene buttato via, ma che ci vuole del tempo. Bene Mauro, noi ti ringraziamo tantissimo, ringraziamo anche Andrea e veramente ci risentiamo su queste frequenze per le prossime uscite. Io direi che potremo sentirci per l'inaugurazione della collana, per la Vallorani, per Cacucci, insomma vi teniamo d'occhio, come dire. Grazie. Grazie mille a Mauro e Andrea di Eleutera per essere stati con noi. Ciao, buona giornata. Ciao.